tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E stiamo raccontando questa lunga serata di Capodanno che ormai è già diventata la prima notte del 2020. Lo stiamo facendo con tutti coloro che sono passati ai nostri microfoni all'interno del nostro locale in questa serata ormai nottata, e insieme a noi quattro ragazzi che uniscono geograficamente le due Reggio. Emilia e Calabria, incredibile, le due Reggio, il primo caso. Il ragazzo sul pezzo, perché effettivamente è il primo caso di unione le due Reggio da nord e sud, da nord e sud, o meglio più che nord, centro nord, perché centro-nord, insomma un po' più giù. Però insomma, è anche bello geograficamente. Ma perché noi abbiamo sempre avuto questo progetto di unire le due città, perché noi siamo alla Garibaldi, no? I nuovi Garibaldi, sì. Ma ero senza mille, sono in quattro. Esatto. Infatti, beh, cioè, giustamente sette più sette migliori, no? Sì, sette migliori. Siamo in quattro Garibaldi. Solo quattro, lui ne aveva mille. Ne aveva mille, voi in quattro avete fatto quello che lui da solo in mille non sono riuscito a fare, no? Ma ecco, spiegateci il perché di questa cosa dei due Reggio, così almeno anche il pubblico capisce. Guarda, parlo per i ragazzi, in Calabria non c'è un cazzo di lavoro, quindi i nostri genitori sono andati a Reggio Emilia e noi siamo andati a Reggio Emilia e da lì si arriva. Però origini comunque calabresi. Sì, sì, sì, ce l'abbiamo calabrese. Lavorate a Reggio Emilia, ma... Lavoriamo a Reggio Emilia, ci siamo insediati bene, l'accento è quasi di Sassuolo. Siamo lì, diciamo. Beh, che anche dal punto di vista culinario non è andata male, perché no, benissimo, tra tigelle, piadine, prosciutti, sì, diciamo che forno. Avete lasciato una terra già ricca e buona dal punto di vista culinario, ma siete comunque atterrati buoni. Siamo cascati in piedi, siete cascati non male. Sì, sì, sì. E intanto come vi chiamate, visto che non, abbiamo, non vi abbiamo Marco, ancora presentati? Io sono Geppo. Io sono Luca. Sono Alex. Ok, e siamo visto la Truce Clan. La? Truce Clan. Truce Clan, riferito a? È un tributo, è un nostro tributo a un rapper, a una band romano. A una band. Noi, oltre che unire il nord e il sud, vogliamo anche il centro, madonna, sono un atlante geografico. Un atlante geografico, ok? Io ne conosco uno, ma spero non sia lui. È con la B il cognome, no? No. Ah, ok, no, del no. Tipo? No, Truce Babba, cos'era? No, Truce Baldazzi è terzo. Ah, no, vedi che esiste però. Allora, per quelli collegati, Truce Baldazzi è un cane. Però vedi che dicendo Truce a me è venuto a mente. Era molto Truce. Era molto bello. Il primo collegamento Baldazzi è stato era molto Truce. Giusto, giusto. E poi non so se l'hai mai visto il suo video dove tipo voleva far saltare in aria la scuola, non ti è mai capitato. Vabbè, sono stati tanti di video, tanti di video un po' discutibili. E come mai questo Truce Clan, da dove nasce? Nasce dall'idea dei tossici, praticamente. Ci fumiamo solo delle canne, e quindi tranne lui, che è un dottore. Quindi deve perché stare non lo attento. Vedete, avete ragione. E quindi niente, ascoltando rap da tutto, tossici. Integriamo tutto dalla strada, dall'underground. La strada in cui raccontiamo di vita al filosofico. Esatto. Nonostante superiore. Abbiamo la camicia, ci fumiamo le canne. Ah, ok. Volevo dirlo agli ascoltatori. Vedi, lo stile, insomma, non capito. Noi uniamo tutto. L'abito non fa il monaco, insomma, mai, come si dice. Tutti quanti. Ok, ok. E cosa fate nella vita invece a Reggio? Manutentore negli ospedali. Ok. Manutentore di condomini. Io faccio il collaudatore. Io lavoro a Milano come consulente finanziario. Yeah. Ah, non eri dottore? Era però. Lui il dottore. Scusa, pensavo dottore medico, non dottore. No, dottore. Nel senso. Magari. Dottore finanziario. Finanziario. Okay. Si tromba molto. Scusate, siamo in diretta. Mi è bippato il trombare? No, troppo no. Sembra un sacco serio. In ospedale, in ospedale. Insomma, c'è questa leggenda, non c'è più l'idraulico, ma... Quanti ascoltatori ci sono? Adesso non lo possiamo sapere, però comunque potranno anche risentirvi in replica. 6 milioni 550 mila. Tanti. Due. Claudio. Beh. Claudio e Luca, attenzione, ciao. Però Claudio. Ho scoperto che abbiamo ancora 3 minuti, 4 minuti. No, li avete. Non li abbiamo. Allora, volete lanciare un messaggio positivo per questo 2020? Vai. Pilo per tutti. Bravo, mi piace. Mi sembra copiato, nel senso che l'ho già, l'ho già sentito. L'ho già sentito. È lui che l'ha copiato me. Ah, perché è tuo originale? Era il mio originale. Il marchio originale è tuo. Di mio nonno. Ah, quindi tramandato di tre generazioni. C'è la frase: ogni buco è un rifugio, quindi siamo a posto. Dai, cosa devo dire? Le perle. Filosofia, abbiamo detto prima. C'è la filosofia. Tu di dove sei? Non ci hai detto niente. È vero. No, io sono dalla provincia di Mantua. Ah, sì? A una trentina di chilometri. Mantuano, sì, sono una trentina di chilometri. Lo sanno già Marco e Claudio. Ah, lui dice Marco e Claudio. Ah, sono nuovi rispetto a prima. Esatto. Sono nuovi. Non sono due, ma sono nove. C'è anche Ludovica che sta dormendo. Mi piace il mondo che ha in testa questo ragazzo. Sì. Perché sono sette persone. Lui ha sette persone. Siete, qua, siete, siete sicuri che è l'unico che non fuma dei quattro lui? Mi sembra un po'. Per fortuna. No, no, io mi dico sembra un po' ribaltata. Così. Mi sembra un po' ribaltata il ruolo. Ribaltato, ma di Ernesto sanno tutto perché lui deve comunque. Ma Ernesto ti piace. Ernesto, ragazzi. Oh, vabbè, Ernesto. Va bene, va bene come nome. Ernesto deve impegnare quella giornata lavorativa. E allora si fa conoscere. Sì. Esatto, quindi bisogna raccontare qualcosa di sé. Noi ci facciamo conoscere. Ci raccontiamo. Questo è il mestiere, lavoro. No. Fai altro. No, faccio altro e nel weekend faccio questo. Ah, sì, sì, bello, sì, bellissimo. Sì. Però ci bello, sta, sì, sì, sì. È bellissimo. Ma da quanto è che lavori al convento? Tre anni. Ma due anni e mezzo. Cosa, sì. A livello di figo, come si sta al convento? Allora, si sta bene. Trombi oppure no? Dicelo. No, si sta bene. Cookie, si sta bene, ma purtroppo ti devo sfatare un mito che noi siamo visti come il ruolo che non è così interessante come sempre. Ah, quindi gli sfigati. Questo. Esatto, è vero, ma è veramente così, è veramente così. C'è un'etichetta addosso che comunque sembra, ma c'è un'etichetta addosso. No, è vero, è vero. Una canzone allora. Ma è il personaggio parla prima di te. Comunque guardavo il tuo papillon. Sì. Noi abbiamo appena cantato 50 specchi. È vero. Quindi vedi, ci sei tutto circolare. C'era un feeling bellissimo. Sì, sì, vabbè, è tutto circolare. Questo come me, quindi per Claudio e Marco che ci stanno cantando. Ma dove le vedi? Dove sono le marche? Oh, io voglio sapere quanto è stato. 6.750.000. No, quello è per le donazioni. Teleton. Quello è Teleton. Danno 2 euro. Se volete fare dei soldi vi do il mio IBAN allora. Schi. Farli, non donarli. Farli, ok. Ok, ragazzi, siete solo voi quattro? Siete di più? Siamo solo noi quattro. Ah, sembriamo vedi. Di più, ma siamo in quattro. No, beh, magari eravate una compagnia più. In realtà abbiamo più prenotato ampia, ieri. No, stamattina alle 11. Beh, quindi fortunati anche a trovare ancora posto. E come è prima volta che andate in giro voi quattro o è usanza? Una vita intera. Una vita intera voi quattro. La prima volta cugino. Per molti di noi al convento. Ah, beh, io la bene. Seconda. La sua la seconda. Bene, bene. Io sono venuto 2 o 3 anni fa. Un okay. Po' come il tuo percorso lavorativo. La prima volta che siamo in diretta radio per Claudio e Marco. Claudio e Marco. Affezionatissimi Claudio e Marco. Non si sono ancora disconnessi. Lo voglio dire anche con te. Ma se parlo col diaframma sono un po' più sexy. Potresti acchiappare di più. Claudio, sono più sexy. Ehi. Ludovica si è svegliata. Ludovica. Che prima stava dormendo, come lui ha detto. Lui parlando di diaframma, si è svegliata. Che ha sentito insomma, una voce sexy. Ha detto: aspetta, che ascolto un attimo. Perché io al telefono parlo solo di diaframma. Per farti sapere, è Luca la voce sexy. 7, 6, 8. Beh, magari potrebbe aiutare. Non si sa mai. È Luca per gli amici, Marco. Comunque noi eravamo al tavolo Gualtieri Marco. E ci volete seguire noi. Ah, ok. Siamo Ernesto. Ah no, beh, ma siamo ci in dici diretta. Il tuo vero nome? Oh, siamo in diretta, 6 milioni c- seguite la pagina Facebook Tecnodrones. Tecnodrones con la H. Segui Tecnodrones. Hai il telefono? Cioè, allora adesso Ernesto tira fuori il telefono. Aspetta. Claudio Marco, seguita. Ragazzi, seguite Tecnodrones. Tecno con la H. Noi siamo degli specialisti in riprese aeree con i droni. Esatto. Io ho il patentino, il ragazzo qui ha fatto vari corsi di fotografia. Non lo vedete, ma è lungo. Ehi. Ah no, non siete voi. Ci siamo. C'è anche un'etichetta discografica che si chiama uguale. No, magari, vecchio, non siamo noi. È la verità, è vero. Però ehi. Ah, non su Facebook. No, su Facebook costa troppo. Allora, su Facebook stiamo per arrivare. Non abbiamo i soldi veri. Espandete. Ed è un momento molto social. Eccolo qua. Geppo deve fare la pipì. L'ha trovato. Fatto. Non ci credo. Seguite, lo rifolliamo subito, ragazzi. Subito. Lo rifolliamo. L'ultimo è in piscina. L'ultimo video? Sì. Quello di un matrimonio, sì. No, sì. Vedi, però. Tecno Wedding. Tecno Wedding. Tecno Drones, ricordo. Tecno Drones. Bravi. Diventeremo famosissimi. Ah, ne sono certo. Allora, volete mandare un saluto a qualcuno? Buon 2020 ai nostri amici. Andiamo a tutti. Saluto a Reggio Emilia. Ad andiamo a Daniela, soprattutto. Andiamo e immagini inciottita. Gruppi WhatsApp. Gruppi WhatsApp. Ok, scusate, non vorrei togliere la parola, 2022, ma. Buon scusami, Geppo. Vai, Geppo. Nuovo. Perfetto. Non vorrei togliere la parola, ma volevo far salutare gli ascoltatori dal nostro dottore. Ernesto, ascolta. Ernesto, come si ricorda i nomi? Ascolta, il dottore, insomma, visto che ci sono gli ascoltatori. Saluta gli ascoltatori. Vai. Io saluto Master Nick in diretta con Master Nick. E saluto il signor Claudio e il Luca. Signor Marco. Luca, detto Luca. Sono stati dato gli unici a restare connessi dall'inizio dell'intervista ad oggi, ad ora? Dall'inizio, cioè dalle 9:30. Adesso sono tipo le 4 meno 3:40. 3:40? Vabbè, uguale, va bene uguale. Non conosco questo programma, quindi vai sul sicuro. E niente, salutiamo anche Ludovica per la sua leggera apparizione. Quando Quando ho usato il diaframma, cazzo. Ludovica si è ripreso. Ehi. Grazie Ludovica, adesso può tornare a dormire. E adesso noi possiamo andare a figa. Sono tranquilli. Ciao a tutti, arrivederci. In bocca al lupo e buona caccia. Ciao ragazzi, ciao. Ma come la troviamo?